Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24 e vi parla Daniele Biacchessi, come ogni giorno due edizioni alle 6.30 e 13.30 che vi raccontano l'Italia. Trame Festival è il primo evento culturale in Italia dedicato ai libri sulle mafie. Inizia per la seconda volta alla Venezia Terme il 20 giugno, cioè dopodomani. Dal cuore della Calabria arriva dunque la voglia di denuncia e di risveglio delle coscienze civili contro le mafie. I workshop e gli incontri con gli autori coinvolti in prima persona nella lotta alle organizzazioni criminali nel nostro paese. Alessandra Tedesco ha intervistato il direttore del Festival Trame, Lirio Abate. Trame è il festival dei libri sulle mafie, che è nato lo scorso anno grazie alla volontà dell'associazione anti-racket di Lamezia Terme, che è nel cuore della Calabria, grazie a un gruppo di volontari, di giovani impegnati praticamente a dire no all'andrangheta e alle mafie, e grazie al sostegno di alcuni amministratori, media partner eccetera, che ci siamo messi insieme e abbiamo detto che con la pratica, andando in trincea, cioè in Calabria, dove nasce l'andrangheta e poi si diffonde, si può mostrare praticamente quell'esempio culturale che diamo nei libri, sui giornali, quando scriviamo contro le mafie. E anche quest'anno Trame ritorna alla Venezia Terme dal 20 al 24 giugno, dopo un grande successo che ha avuto lo scorso anno con centinaia di appuntamenti che si sono protratti per 5 giorni dalle 18 del pomeriggio fino alla luna di notte, doppiando molti di questi. Grande successo dei calabresi che sono venuti in massa, significa che la gente ha bisogno, ha sete di sapere, ha sete di avere sul campo, sulle proprie città, nelle proprie piazze, esempi concreti, esempi pratici di chi dice no alle mafie e di chi incoraggia a rompere quel muro dell'omertà. Spesso si dice che sui giornali non si trovano più le inchieste di una volta, anche nel campo appunto delle mafie. I libri possono in qualche modo supplire a questa mancanza? I libri sulle mafie nascono proprio per questo motivo, perché i giornali non hanno lo spazio per raccontare tutto quello che ci sarebbe e c'è da raccontare sulle mafie. Radio 24 lo fa benissimo, dedica molto spazio, però un approfondimento come quello che è il libro sulle mafie, con questi grandi saggi scritti da grandi giornalisti, magistrati, investigatori, era necessario ed è necessario. E Trame nasce per questo, perché fino allo scorso anno in Italia, con tutti i festival di letteratura che ci sono in giro per la penisola, non c'era un festival dedicato ai libri sulle mafie. Ma non è soltanto un festival, è l'esempio pratico di gente che si mette alla scrivania e racconta e scrive un libro che poi vogliamo portare sul territorio. E l'esempio, la lettura e la cultura ci porta poi a dare esempi pratici in Calabria, che conviene raccontare e denunciare che non subire l'andrangheta. I libri sulle mafie sono appunto spesso libri di denuncia, sono libri coraggiosi. È mai capitato il caso di case editrici appunto che si sono rifiutate di pubblicare libri sulle mafie perché per non avere rogne, ecco, per non avere problemi? Beh, magari in passato questo accadeva molti anni fa, e invece c'è stata un'inversione di tendenza negli ultimi 3-4 anni, in cui la saggistica, proprio i libri di mafia, sono fra i più venduti nelle case editrici. Questo ha fatto capire a molti che occorre fare business, e molti lo prendono come un business, mentre gli scrittori lo prendono invece come un esempio, come un fatto, ecco, civile di impegno sociale nel raccontare. Si vanno incontro due esigenze, l'editore da una parte e l'autore dall'altra, per cui quello che poteva accadere prima, 10-15 anni fa, di dire no a un libro di mafia, oggi non accade più. La svolta nella pubblicazione di libri sulle mafie si è avuta anche grazie a Gomorra di Roberto Saviano. Un libro come quello, che è stato molto venduto in milioni di copie, è stato molto letto, quindi da persone che anche normalmente non comprerebbero dei saggi, è un modo appunto per far conoscere il problema o rischia di diventare un boomerang? Ha acceso i riflettori in una zona, in una parte d'Italia in cui le luci erano spente da parecchio tempo, anzi forse non si erano mai accese. è servito da volano per dare, non dico il via, ma per spingere tutte quelle realtà saggistiche che già in quel periodo in cui usciva quel libro erano già in libreria. È un libro che non è un saggio, è un romanzo, ma che spinge molto la saggistica, spinge molto a parlare di mafia. Il problema, l'unico vero problema, è che poi la saggistica non arriva in televisione. E siccome gli italiani guardano in grandissima maggioranza la TV e quello che la TV propina loro acquistano, a volte capita che i libri che vanno in televisione vendono e i veri libri o la saggistica vera che rispecchia la realtà che non va in televisione purtroppo restano negli scaffali delle librerie. Fra i libri sulle mafie mi ricordo per esempio un libro di Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, in cui lui descrive perfettamente tutti i meccanismi dell'andrangheta. Sembra quindi che i magistrati, la polizia, conosca perfettamente come funziona, ma allora perché non si riesce a debellare? È una volontà politica? Partiamo dal fatto che le mafie sono mafie, la mafia è mafia perché va a braccetto con la politica, perché altrimenti sarebbe soltanto gangsterismo, sarebbero guerra tribale fra bande. La mafia è questa, per cui nel momento stesso, e cioè nel 95, quando si era nella possibilità di annientare almeno la mafia siciliana, le armi sono state spuntate, le armi legislative sono state spuntate ai magistrati, c'è stato un arresto della lotta alla mafia e il treno dell'antimafia è arrivato al capolinea. E allora, siccome gli investigatori conoscono, sanno e sanno dove andare per beccare gli 'ndranghetisti, poi magari all'ultimo mancano i mezzi, gli uomini, le risorse, perché oggi è vero che il nostro paese è uno di quelli che ha gli strumenti e la legislazione contro le mafie fra le più importanti e le più evolute del mondo e molti paesi ci invidiano. Il problema è che poi bisogna applicarle, bisogna farle queste applicazioni, ma quando ti mancano gli uomini delle forze dell'ordine, perché non assumi da 5 anni, quando ti mancano i magistrati, perché gli ultimi che hanno vinto il concorso, 2500 giovani uditori magistrati, non vengono messi in ruolo perché non ci sono i soldi, quando da 10 anni non si fanno assunzioni al Ministero della Giustizia, nelle cancellerie, nel personale amministrativo, e le cancellerie sono vuote o non c'è il personale per sbrigare le pratiche, e quando si dimezzano i finanziamenti alle forze dell'ordine, non c'è la benzina, non ci sono i soldi per pagare gli straordinari. Ma come si deve fare la lotta alla mafia? Con chi si deve fare la lotta alla mafia? Questa è la realtà di questo paese. Negli ultimi anni si è assistito a un vero e proprio boom della saggistica all'interno del mercato editoriale. Chi sono i lettori dei libri sulle mafie? Qual è il loro identikit? Beh, ci sono diversi identikit. Innanzitutto sono gli stessi mafiosi che lo leggono, perché il mafioso si pavoneggia moltissimo, vuole sapere di se stesso cosa si scrive e come si scrive. Il mafioso è mafioso perché vuole apparire, vuole che si sappia che è mafioso. Chi non lo legge o chi ha paura di queste cose è il complice del mafioso, è il politico, il colluso, il professionista, favoreggiatore. Ma la gran parte dei lettori sono quelli, sono purtroppo i mafiosi. Accanto a loro c'è chi invece vuole conoscere queste realtà, la gente che si indigna, ma che non è una maggioranza, e si equivale fra il mafioso e l'indignato. Ma quella non fa la maggioranza degli italiani. Purtroppo la maggioranza degli italiani lo fa soltanto quando un libro va in televisione e se ne parla e si fa vedere la copertina. Ma quando i libri sono scomodi, in televisione non ci vanno. Era Italia in Controluce, torniamo domani puntuali alle 6:30 su Radio 24.